2024 di Enrico Pagliarini. Benvenuti o bentornati, questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Abbiamo molte cose da dirvi in questa puntata, allora direi che potremmo iniziare subito con le notizie in breve selezionate durante la settimana condensate nelle nostre Digital News. Digital News. La prima notizia riguarda un'operazione antipirateria digitale, una nuova operazione di questo genere. Il Tribunale di Roma ha disposto il sequestro preventivo di 56 server e 2 siti web che facevano parte di un'organizzazione criminale per vendere abbonamenti a pay TV via internet. Sono stati individuati e bloccati più di 160.000 abbonamenti illegali e circa 900 rivenditori di questo network criminale. Il governo russo ha deciso di estendere alle 43.000 scuole del paese il sistema di riconoscimento facciale presente al momento in circa 1.600 istituti. Il sistema si chiamerà Orwell, così giusto per farci capire, e servirà per monitorare i bambini e identificare gli estranei. In Russia i sistemi di riconoscimento facciale sono largamente utilizzati per il controllo della criminalità, per sicurezza in generale e ultimamente anche per monitorare le persone che risultano positive e devono rispettare la quarantena. Ricorderete che abbiamo dedicato più di una puntata alle cosiddette digital therapeutics, cioè le applicazioni che hanno un effetto terapeutico e che quindi vengono prescritte da un medico e sono riconosciute come tali dal Servizio Sanitario Nazionale. Allora, ne esistono poche. Non esistono in Italia, in Europa ci sono alcuni casi, se non sbaglio un caso direi in Germania. Comunque il fenomeno è nato negli Stati Uniti e da pochi giorni la Food and Drug Administration, che è l'agenzia federale che autorizza i farmaci, ha deciso che un videogioco che si chiama Endeavor RX sarà il primo ad essere commercializzato e prescritto come un farmaco per la cura della sindrome da deficit d'attenzione e iperattività nei bambini. Questa decisione è stata presa dopo 6 anni di test clinici. Comunque è un tema molto interessante, lo abbiamo accennato anche nella scorsa puntata e vi consiglio di andare a riascoltare le puntate in cui abbiamo approfondito appunto il tema del digital therapeutics. A partire da luglio Zoom, o detto anche Zoom, renderà disponibile una protezione della comunicazione con crittografia end-to-end anche per i servizi gratuiti. Zoom, che per tanto tempo è stato nell'occhio del ciclone, criticato per tutti i problemi di security che ha avuto contemporaneamente alla crescita esponenziale degli ultimi mesi, soprattutto durante le restrizioni per il coronavirus. Twitter ha deciso di aggiungere l'audio ai tweet, per ora solo per gli utenti di iOS, che potranno registrare un messaggio vocale lungo fino a 140 secondi da allegare al tweet, così come si fa con una fotografia, ad esempio. Parliamo di Facebook, abbiamo due notizie che fanno parte della famiglia di Facebook. Allora, Facebook ha acquistato per una cifra che non è stata resa nota la svedese Mapillary, Map sta per mappe ovviamente, Mapillary, che è specializzata nella creazione di mappe tramite crowdsourcing, soprattutto quello che si vede a livello stradale. Allora, invece di inviare sulle strade automobili, come fa ad esempio Google, come fa Apple, come fanno Microsoft, come fanno altri player, o altri mezzi dotati di telecamera per fotografare tutto quello che si vede, Mapillary usa gli smartphone degli utenti o altre fotocamere, e quindi utilizza gli utenti, per questo si dice crowdsourcing. Mapillary contribuisce anche a OpenStreetMap, che è un servizio di mappe open source, ha dichiarato che il suo impegno in questo campo non cambierà, e quindi questo è sicuramente positivo. Facebook potrebbe usare questa tecnologia e i dati di Mapillary per tutta l'offerta di realtà aumentata e virtuale. Comunque non è stato reso ufficiale quello che Facebook farà di questo. Allora, sempre in casa Facebook, una notizia che riguarda WhatsApp, che ha lanciato per i 120 milioni di utenti brasiliani la possibilità di inviare denaro, inviare e ricevere denaro, così come si invia o riceve una fotografia. Ovviamente si può usare anche per pagare in un negozio, quindi pensate che dall'oggi al domani 120 milioni di brasiliani sono abilitati per fare pagamenti digitali in app all'interno dell'applicazione sul proprio smartphone. Dopo un test fatto in India nel 2018, questa è la prima volta che il sistema di pagamento di WhatsApp viene esteso ad un intero paese. Abbiamo due notizie dall'Italia. Una startup italiana che si chiama Winelivery ha annunciato di aver raccolto a febbraio 2,5 milioni di euro in un investimento al quale ha partecipato anche Intesa San Paolo. Winelivery, dove wine sta per vino, quindi da delivery, c'è la parola wine, è specializzata nelle consegne a domicilio di alcolici e soft drink, birre, vino, eccetera, eccetera, in 30 minuti e alla giusta temperatura in 30 delle principali città italiane. Durante le restrizioni per il coronavirus gli ordini sono cresciuti tantissimo, tanto da raggiungere nei primi 5 mesi dell'anno gli obiettivi previsti per la fine del 2020. Comunque è una bella idea, Winelivery, uno ha bisogno di vino oppure vuole bersi una birra, fa l'ordine, arriva puntualmente in 30 minuti, anche noi in radio l'abbiamo provata varie volte, puntuale, fresca, alla temperatura giusta. L'italiana Esprinet, che è uno dei più importanti distributori all'ingrosso di prodotti tecnologici e di informatica, ha acquisito per quasi 34 milioni di euro la società informatica spagnola GTE Software e Networking tramite Esprinet Iberica. Un'ultima notizia che riguarda la Volkswagen, sempre impegnata, particolarmente impegnata in questo periodo, nello sviluppo e soprattutto dello sviluppo delle auto dei prossimi anni. Allora, dopo un primo investimento da 100 milioni di dollari 8 anni fa, Volkswagen ha iniettato altri 200 milioni in Quantum Space, che è una società americana specializzata in accumulatori, quindi batterie, che sta sviluppando batterie allo stato solido, una tecnologia considerata come fra le più promettenti per il futuro e che dovrebbe consentire di costruire batterie più leggere, a parità di energia accumulata, più rapide nella carica e anche più sicure. Poco parleremo dell'entrata nel mercato ultra broadband, quindi della fibra ottica di Sky Italia, e poi commenteremo alcuni dati interessanti anche per capire lo sviluppo delle reti internet e delle reti in generale, alcuni dati dal Mobility Report di Ericsson. Adesso parliamo del prossimo lancio, nelle prossime ore, del razzo italiano Vega, che è una vera eccellenza tecnologica a livello globale. Questo lancio avverrà dal centro spaziale di Kourou, nella Guyana francese, metterà in orbita 53 piccoli satelliti di 21 diverse istituzioni ed aziende. Contate che di solito su un razzo del genere ci sta un satellite, o forse due satelliti classici, no? Lanci con a bordo decine di satelliti sono già stati effettuati da altre nazioni, ad esempio gli indiani, che sono una potenza emergente, forse non più emergente, cioè nel senso che si sono già affermati come una potenza nel mondo dello spazio. Allora, gli indiani hanno il record con 104 satelliti in un sol lancio, ma anche SpaceX continua a lanciare 60 satelliti alla volta per il programma Starlink, che ha già 540 satelliti in orbita. Sapete che Starlink ha come obiettivo, che è sempre una società di SpaceX, ha l'obiettivo di mettere in orbita migliaia di satelliti per realizzare una costellazione che erogherà, ma questo avverrà tra pochi mesi direi, erogherà internet in zone, un po' in tutto il mondo, però prevalentemente la richiesta sarà in zone dove non c'è internet. È ovvio che in centro Milano, dove c'è fibra ottica, difficile che uno si colleghi a satellite. Saluto Francesco Topputo, che è docente di sistemi spaziali al Politecnico di Milano. Benvenuto a 2024. Grazie. Sentiamo ultimamente parlare di nano, micro, mini satelliti o CubeSat. Di cosa stiamo parlando? Esatto, come ben detto, l'esplorazione spaziale è andata avanti da sostanzialmente gli anni 50 in poi, quindi diversi decenni, utilizzando satelliti, come chiamiamo noi, monolitici, satelliti che fossero diciamo pesanti centinaia se non tonnellate, centinaia di chilogrammi se non appunto migliaia di chilogrammi, e appunto fossero molto costosi da mandare in orbita, perché sappiamo bene che per ogni chilogrammo aggiunto, lo Space Shuttle ad esempio nel 2011 costava $22,000 mandare in orbita un chilogrammo. Quello che è successo negli ultimi anni, e con l'accelerazione sostanzialmente negli ultimi 10-15 anni, con l'avvento della miniaturizzazione dell'elettronica, ce ne siamo accorti con gli smartphone che utilizziamo quotidianamente ormai, ecco, questo ha dato un impulso alla miniaturizzazione appunto degli strumenti e quindi alla miniaturizzazione dei satelliti. Per cui ad oggi quello che era nato come un esercizio universitario in California all'inizio degli anni 2000, sto parlando ad esempio dei CubeSats, è diventato ad oggi uno standard industriale per fare ad esempio missioni di osservazione della Terra, di telecomunicazioni, di meteorologia, eccetera. Stiamo parlando di sistemi del peso di pochi chilogrammi, fino a una decina se vogliamo, che hanno determinate, diciamo, caratteristiche in termini di strumentazione, ovviamente diciamo scalata e non comparabile alla qualità di un prodotto che posso ottenere con un satellite di centinaia di chilogrammi, ma tuttavia ha un costo che è uno o forse anche due ordini di grandezza inferiore. Quindi se mettiamo sullo stesso piatto il costo della missione e la qualità del prodotto che ottengo, ovviamente abbiamo un punto, diciamo, di progetto che non era ottenibile con i sistemi usati negli ultimi decenni. Questi satelliti, questi mini satelliti, devono essere sostituiti più spesso rispetto ai classici satelliti, perché immagino che in uno spazio e in un peso così ridotto ci sia poco spazio per il carburante. Allora, se questi satelliti di solito non sono il carico pagante di una missione, tipicamente in inglese questi vengono chiamati piggyback, cioè sono carichi secondari, ogni volta che viene lanciata una missione diciamo primaria, i CubeSat vengono lanciati assieme, perché c'è un margine di massa che può essere ancora lanciata dal lanciatore. Questo non è il caso del lancio del Vega, che appunto, come citava prima, porterà in orbita decine di satelliti e avrà un lancio dedicato, diciamo, federato tra tutti questi satelliti. Nel caso, diciamo, normale, i satelliti vengono rilasciati sull'orbita del carico pagante, quindi decide chi è che paga il lancio, quindi chi è che è il passeggero, diciamo, privilegiato, l'orbita di rilascio, e i CubeSat si devono sostanzialmente adattare. Ora, venendo alla risposta alla sua domanda, alcune orbite sono sostenibili nel lungo periodo e quindi non richiedono un dispendio di carburante, altri chiaramente, altri tipi di orbite necessitano di una serie di manovre continue, però in proporzione a quello che richiederebbe un satellite, diciamo, monolitico, un CubeSat richiede meno propellente in proporzione, quindi non c'è un problema di durata della vita media associato alla quantità di propellente imbarcato. Forse ci sono dei piccoli problemi per gli aspetti legati alle radiazioni, perché potrebbero andare a degradare l'elettronica, in quanto al fine di abbattere i costi di una missione, in un nanosatellite si cerca di imbarcare tecnologia non prettamente spaziale, ad esempio chip dei telefonini, per fare un esempio concreto, e questi molto spesso non sono resistenti alle radiazioni, alla stregua dei componenti che sono invece imbarcati sui satelliti convenzionali, che sono stati, diciamo, testati per funzionare nello spazio. Quindi l'unico problema, diciamo, che potrebbe andare a limitare la vita operativa del satellite è questo aspetto legato alla resistenza alle radiazioni dei componenti che lo formano. Però questo fa parte dell'equazione che dicevamo prima e quindi sostanzialmente va nel bilancio complessivo della missione nel momento in cui io abbatto i costi di uno o due ordini di grandezza, come dicevo in precedenza, questo è un qualcosa che posso mettere in conto. Che cosa possiamo aspettarci per i prossimi anni? Cioè, dove, in quali settori o anche per quali servizi che poi noi cittadini utilizziamo, vedremo un cambiamento, magari addirittura una vera e propria rivoluzione con l'uso di questi mini satelliti, CubeSat, eccetera. Dunque, i servizi, diciamo, principali che noi utilizziamo su base quotidiana, forse anche a volte senza accorgercene, sono quelli di, diciamo, osservazione da terra. Pensiamo alle mappe che utilizziamo sui telefonini, che già integrano due tipi di servizi diversi. Uno è un servizio di osservazione, quindi generazione della mappa, e l'altro è un servizio di posizionamento, ad esempio col GPS, col americano, col Galileo europeo o con altre costellazioni, oppure servizi meteorologici, sempre per fare un esempio di un'altra app del cellulare. Chiaramente l'input viene da misurazioni fatte via satellite o anche la stessa connessione ad internet. Alcuni di questi servizi sono ben scalabili per i CubeSat, altri invece difficilmente. Penso ad esempio ai servizi tipo GPS o equivalenti. Al momento non ci sono soluzioni che possano utilizzare le tecnologie miniaturizzate tipiche dei CubeSat. Stessa cosa per i servizi meteorologici. Invece, per l'osservazione della Terra e per la connettività, soprattutto delle zone remote del pianeta dove o mancano le infrastrutture, pensiamo ad esempio al continente africano, oppure sarebbe molto dispendioso investire in infrastrutture, pensiamo ad esempio a, non so, connessione in Antartide per dire, o alle regioni più remote, pensiamo alle isole del Pacifico, dell'Oceano Indiano, dove effettivamente investimenti potrebbero appunto non essere ripagati per dispiegare un'infrastruttura tradizionale. Allora, in tutti questi posti si può arrivare tranquillamente a connettere le persone utilizzando costellazioni di nano o microsatelliti. Noi ad oggi stiamo vivendo un periodo in cui si stanno creando delle costellazioni artificiali, di satelliti artificiali appunto, formate da centinaia se non addirittura migliaia di satelliti. Ecco, io ricordo che questi concetti sono stati, diciamo, in giro nella comunità da tanto tempo, ma fino a 10 anni fa nessuno ci credeva. E quello che sembrava, diciamo, incredibile fino a 10 anni fa, adesso è diventato realtà. Questo giusto per dare un'idea della trasformazione che stiamo vivendo. Per quanto riguarda l'osservazione della Terra, che cosa potremmo aspettarci? Ma sicuramente tempi di rivisita molto, molto più brevi. Quello che si fa adesso è acquisire delle immagini nel visibile o altre bande dello spettro della radiazione, e poi, siccome ci sono diciamo, pochi satelliti in orbita, il tempo in cui riesco a passare sullo stesso punto 2 volte consecutivamente è dilatato, dell'ordine, ad esempio, delle giornate, ad esempio 5 giorni, 7 giorni, eccetera. Questo perché un satellite non può restare a punto fisso sulle nostre teste, un satellite in orbita bassa. Questo può succedere solamente se il satellite è in orbita geocentrica equatoriale, resta a punto fisso, ma molto lontano, a 36.000 km di distanza. Invece, avendo appunto decine, centinaia o addirittura migliaia di satelliti, il tempo di rivisita si accorcia e può diventare anche di pochi minuti. Io ho visto dei report, ci sono degli studi che puntano addirittura a fare un live streaming di quello che sta succedendo in un determinato punto, in un determinato momento. Noi ricordiamoci, quando andiamo sulle mappe che consultiamo appunto quotidianamente, quella è un'immagine d'archivio, non possiamo vedere quello che sta succedendo in quel momento in diretta. Invece, diciamo, gli studi di fattibilità che citavo un attimo fa, mirano a darci la situazione in diretta, la copertura in diretta della zona che stiamo guardando. E questo è un concetto che effettivamente sembra molto futuristico, ma diciamo che non siamo molto lontani, considerato i progressi che sono stati ottenuti negli ultimi anni nel settore dei satelliti miniaturizzati. Professor Toputo, grazie per essere stato con noi, a presto. Grazie a voi, a presto. Pensate ad un servizio basato su questo tipo di dati, cioè dati che arrivano praticamente in tempo reale su quello che succede nelle città. Pensate alla ricerca di un parcheggio. Se tu hai satelliti che praticamente costantemente ti dicono qual è la situazione a terra, beh, la ricerca del parcheggio potrebbe non essere più un problema. Avere un'indicazione precisa, oppure che ne so, se uno riesce a monitorare il parcheggio di un centro commerciale dall'alto, potrebbe fare tutta una serie di ragionamenti, di previsioni. Insomma, possiamo veramente utilizzare la fantasia pensando questi servizi, nuovi servizi che arriveranno, avete capito, in non tanti anni. Adesso parliamo di Sky, che questa settimana ha lanciato Sky Wi-Fi, una nuova offerta che segna l'entrata della Pay TV nel mercato della banda ultralarga in fibra ottica. Al momento questo servizio è attivo in 26 città solo per i clienti già Sky, ma già da luglio saranno 120 le città dove il servizio sarà disponibile. Comunque è una partenza graduale e la cosa importante è capire perché un player importante nel settore della Pay TV entra nel mercato broadband. Per parlare di questo è con noi Massimo Ibarra, che è l'amministratore delegato di Sky Italia. Benvenuto 2024. Grazie mille. Per quale motivo Sky entra nel mercato ultra broadband in fibra ottica e quindi diventa un fornitore di connettività? È stata una scelta legata all'evoluzione naturale del nostro servizio. Chiaro che essendo noi un TV a pagamento, una Pay TV che negli anni è riuscita ad avere un portafoglio di contenuti di prim'ordine ed essendo protagonisti di fatto all'interno della casa per quanto riguarda appunto a 360 gradi l'entertainment, ma anche le informazioni e anche la parte più culturale, visto che abbiamo Sky Arte, era abbastanza naturale che offrissimo ai nostri clienti un servizio all inclusive legato anche alla connettività e al broadband. Ma l'elemento importante è che nel comportamento di consumo dei clienti c'è un utilizzo sempre più importante, sempre più forte, di contenuti on demand. E l'on demand passa attraverso l'esperienza ultra broadband. Quindi per poter dare il meglio della qualità dei contenuti, ma anche il meglio nell'ambito della fruizione, creare un servizio triple play, che avesse appunto come perno la TV e anche la connettività ultra broadband, è stato di fatto una scelta naturale. Una cosa che mi ha sorpreso, almeno in questa prima fase, è che attualmente non c'è un'offerta integrata internet TV, cioè voi offrite per il momento la connettività e poi uno, se vuole, come dire, a parte, fa anche l'abbonamento a Sky per la parte televisiva. Perché non c'è questa offerta integrata? Beh, in realtà siamo nella primissima fase. Noi quello che abbiamo voluto fare è dare un servizio innanzitutto ai nostri clienti, quindi proprio in anteprima. Questa prima fase iniziale del lancio del servizio Sky Wi-Fi è legato ai nostri clienti e soprattutto nelle città in cui inizialmente offriremo il servizio. In un secondo momento costruiremo e lanceremo sul mercato delle offerte integrate in modo tale che chi oggi non è un cliente Sky possa avere Sky e la connettività insieme. Però ripeto, questa è stata una primissima fase in cui l'obiettivo è quello di soddisfare le esigenze dei nostri clienti che sono già clienti Sky e quindi poter avere anche il servizio Sky Wi-Fi. Domani, pian piano, noi lanceremo delle offerte e delle proposizioni che sono molto innovative e vanno esattamente in questa direzione. Penso che questa scelta vostra ci dica qualcosa, ci suggerisca qualcosa sulla evoluzione della TV. Dal suo punto di vista, dal vostro punto di vista, quale pensa che sia il futuro del video e della TV in generale, quindi che vedremo nei prossimi anni? Direi che la TV è sempre di più protagonista di quello che io definisco essere, no, l'abitazione, le case degli italiani, e non soltanto per quanto riguarda i contenuti prettamente televisivi, ma un'offerta di entertainment ancora più allargata e poi legata anche al concetto di servizi smart home. Ecco perché anche, no, l'attuale offerta Triple Play, dove ci sono gli attuali servizi della TV di Sky più Sky Wi-Fi, di fatto si presta in futuro a poter rendere tutti gli schermi di casa, ovviamente lo schermo principale, quella della TV principale, quella più grande, per poter anche decidere di offrire servizi legati alla connettività più da Internet of Things. Quindi è un allargamento ulteriore, diventa quasi un quadruple play, ma in un'ottica ancora più innovativa, dove la casa di fatto diventa l'area nel quale i clienti troveranno soddisfazione a tutte le proprie esigenze. Si tenderà anche a passare più tempo dentro le abitazioni, dentro le case. E quindi questa tipologia di servizio, che cominciano già a fare capolino in diverse parti del mondo, penso che saranno effettivamente quei servizi protagonisti. Quindi possiamo dire che fra qualche anno, non so fra quanti anni, il broadcast, che sia via rete terrestre o via satellite, non esisterà più. Ma direi saranno dei servizi complementari. È chiaro che nel momento in cui noi abbiamo fatto la scelta del nostro servizio ultra broadband, appunto definito ultra broadband con Sky Wi-Fi, noi offriamo una qualità che ha i massimi livelli. Abbiamo implementato una rete, un network dei servizi informativi che permetteranno ai clienti di Sky di poter fruire dei servizi con, diciamo, livelli e standard qualitativi che sono molto alti. Ripeto, le esigenze sono varie, dal poter fare un download in pochissimi secondi, poter fare un upload, che è un'altra caratteristica importante del nostro network, perché l'abbiamo visto durante il periodo della pandemia, che non è soltanto un utilizzo passivo, ma soprattutto un utilizzo attivo, no? Poter condividere documenti, poter fare anche e-gaming per i giovanissimi, in modo tale che non ci siano dei ritardi tra un comando e l'altro. Quindi sono tutte esigenze che cominciano a fare perno sul fatto che appunto l'abitazione diventerà protagonista nella vita degli italiani, non soltanto. A proposito di qualità del network, avreste potuto fare tutto quello che avete fatto? Poi magari entriamo anche in qualche dettaglio tecnico, perché avete messo in piedi una struttura molto complessa, anche molto costosa. Avreste potuto fare tutto questo senza Open Fiber? Perché ricordiamo che la vostra, almeno in questa prima fase, la vostra offerta si basa sulla rete in fibra ottica di Open Fiber. Noi abbiamo sempre creduto nella fibra che definiamo 100%, no? Quindi la fibra che arriva direttamente nelle case degli italiani. Il vero servizio ultra broadband è quello. Le altre tipologie di servizi fibra sono sì qualitativamente elevati, ma noi abbiamo sempre puntato al massimo. Quindi la partnership con Open Fiber ci ha permesso di poter lanciare il servizio con un livello di posizionamento che è esattamente quello che avevamo in mente. Lei l'ha detto prima, nel momento in cui la televisione si integra con il broadband e vogliamo dare un'esperienza televisiva che sia di altissimo livello, beh, la fibra ottica che arriva direttamente nell'abitazione è la soluzione. Poi è chiaro, nell'ambito degli investimenti che abbiamo fatto, abbiamo puntato su tre aspetti, di cui la partnership con un operatore come Open Fiber, che è wholesale, in fibra ottica, è uno dei tre aspetti. Il secondo, come abbiamo detto prima, è proprio il network che noi abbiamo costruito ex novo, da zero, utilizzando tutte le nuove tecnologie esistenti sul mercato. E terzo, l'ecosistema che abbiamo creato all'interno delle abitazioni, dove il nostro modem, che abbiamo chiamato appunto cuore tecnologico della casa, è il più avanzato esistente sul mercato, nonché anche i pods, che sono questi oggetti che non sono soltanto dei repeater, ma appunto creano un ecosistema in modo tale che la connettività wireless, che è quella che poi gli italiani conoscono, sia in assoluto la migliore. Quindi sono tre aspetti che si integrano tra di loro. Non basta uno dei tre, devi averli tutti e tre per poter offrire quella qualità non soltanto percepita reale che poi le persone hanno quando utilizzano il Wi-Fi. Quindi voi l'avete chiamato Sky Wi-Fi perché puntate molto all'ecosistema di casa, cioè non avete chiamato Sky Fibra o Sky Broadband diciamo che puntate molto su sul fatto che fornite questa nuvola, questo cloud in casa in wifi. Assolutamente sì, perché poi nella quotidianità, quando si parla con le persone, con i giovanissimi, i meno giovani, alla fine le persone fanno sempre riferimento al wifi. È la cosa che viene anche più spontaneo chiedere, no? Quando si entra in un locale, in un ristorante, in un'abitazione, la prima cosa che si chiede è: mi dai, scusami, codici la password per connettermi al tuo wifi. Quindi l'appendice, quella che il cliente guarda, è questa connettività dove tutti gli schermi di casa sono collegati a questa rete wireless Wi-Fi. Ma questa rete wireless Wi-Fi ovviamente è collegata alla fibra ottica per poter dare le prestazioni massime. Quindi abbiamo scelto il nome perché è più familiare per i clienti. Senta, ci dice qualcosa sull'investimento che avete fatto e anche l'infrastruttura che avete messo in piedi e anche per quale motivo avete deciso di fare questo investimento e non appoggiarvi ad un operatore che avrebbe potuto utilizzare sempre la rete di Open Fiber, però un operatore che già era sul mercato e magari poteva in poco tempo mettere in piedi un servizio anche, come si dice in gergo, white label, senza che si vedesse che ci fosse in mezzo un operatore terzo. Se noi avessimo deciso di essere un normale ISP, probabilmente avremmo scelto una soluzione di quel tipo. Ma essendo il nostro core, quello che è la fruizione dei contenuti, che poi alla fine sono il driver principale dell'incremento, no, nell'utilizzo del broadband, basti pensare che già oggi, anche prima della pandemia, quando si parla di percentuale di utilizzo dei dati sulla rete, quanti sono legati ai contenuti, parliamo sostanzialmente di qualcosa che è più o meno tra il 60 e il 70%. Quindi partendo da quel presupposto, fare una normale connettività in modalità white label, come se fossimo normale ISP, non era la priorità. Dovevamo costruire noi un'infrastruttura che ci desse la possibilità di poter gestire il servizio con i massimi standard qualitativi, motivo per il quale tutte le scelte fatte vanno in quella direzione, compreso l'investimento che abbiamo fatto nel network. Come dicevo poc'anzi, abbiamo investito più di 230 milioni, perché? Perché oggi la tecnologia ci permette di poter avere un core network interamente in fibra, interconnesso con tutti i content provider, quindi non soltanto con i nostri servizi, ma anche con i servizi dei content provider più importanti, in modo tale che non ci siano problemi di qualità nella fruizione dei contenuti, ma soprattutto il fatto che sia intelligente, perché oggi la caratteristica importante di questi servizi è quello di poter tarare la rete in funzione del traffico che viene erogato e anche la tipologia di traffico in diverse zone d'Italia. Quindi questo è un investimento sulla rete. Ma poi c'è anche tutta la parte dei sistemi informativi, quindi lei all'inizio mi ha fatto la domanda dell'integrazione con la TV. Bene, noi abbiamo fatto questi investimenti anche per poterli legare ai servizi televisivi, perché poi è questo quello che la gente preferisce, le persone. Quindi noi abbiamo fatto tutti investimenti che potessero darci quella qualità premium che già noi oggi eroghiamo con la nostra televisione. Quindi gli investimenti vanno esattamente in questa direzione, altissimi standard di qualità. Quindi voi siete confidenti, siete convinti di poter offrire via internet la stessa qualità, sia in termini di immagine, qualitativi di immagine, sia in termini proprio di continuità del servizio che oggi viene erogata via satellite? Direi che questo è il nostro obiettivo, lo riusciamo già oggi a fare nel momento in cui noi offriamo ai nostri clienti il set-top box Q, che poi alla fine è, diciamo, la piattaforma in questo momento attraverso la quale noi offriamo i servizi televisivi, è anche questa piattaforma collegata alla fibra. Quindi i nostri clienti oggi sono abituati a fruire dei servizi televisivi in due modalità, e spesso sono ibride, perché alcuni contenuti li posso ricevere dal satellite, altri contenuti, soprattutto il video on demand, lo faccio attraverso il broadband. Domani, nel senso oggi di fatto, i clienti avranno la possibilità di poter avere un broadband ancora migliore, perché appunto l'abbiamo costruito esattamente in questa logica, avendo noi direttamente la connettività ultra broadband dentro casa, con i contenuti on demand della nostra piattaforma Q, l'integrazione dei due ci permetterà di raggiungere degli standard che sono assimilabili a quelli che oggi si possono avere attraverso il satellite. Poi è chiaro che il satellite per noi è importante e i clienti che vorranno avere entrambi avranno la possibilità di poter avere entrambi, perché i set-top box anche di nuova generazione permettono appunto un accesso a diverse piattaforme tecnologiche. Però lei dice la cosa corretta, la nostra ambizione è quella di poter avere la stessa identica qualità, soprattutto per alcuni eventi, gli eventi sportivi live ad esempio, che oggi si ha col satellite, riuscire a darli attraverso il nostro servizio Sky Wi-Fi attraverso il broadband. Ok. Voi pensate di fare business solo su questa offerta? Cioè, come Internet Service Provider, pensate che questa nuova divisione della vostra azienda possa generare ricavi autonomamente, o è funzionale solo a aumentare il numero dei clienti della vostra offerta televisiva? Ovviamente ci saranno anche clienti che aderiranno soltanto alla nostra offerta broadband, questo lo do abbastanza per scontato, ma sono anche convinto che nella stragrande maggioranza dei casi è proprio l'integrazione triple play tra la televisione di Sky e il servizio ultra broadband di Sky che sarà ovviamente nella cima delle preferenze dei nostri clienti, ma anche di nuovi clienti. È una modalità anche per far provare Sky a chi oggi Sky non è. E quindi è, come dire, un'offerta che ci permetterà anche di far scoprire tutto quello che facciamo dal punto di vista televisivo. Per chi invece oggi già conosce Sky, ha delle offerte Sky, avrà la possibilità di poter avere un unico, come dire, un'unica piattaforma di servizi, un'offerta all inclusive che gli faciliterà sicuramente la vita. Però ecco, il segreto è anche nel, siccome la fruizione va sempre di più verso il on demand e i canali lineari tenderanno ad essere sempre meno, non dico come quantità, ma proprio come quantità di utilizzo, non come volume, insomma, di numero di canali, ma come quantità di utilizzo, man mano che ci si sposta verso il video on demand streaming, è evidente che questa interconnessione, questa avere insieme il broadband e la televisione, per i clienti sarà sicuramente un vantaggio enorme. Ok. Lei pensa che possa essere una evoluzione, vista questa nuova avventura all'interno di internet, in futuro la vostra offerta potrà estendersi anche ad una semplice app sullo smart TV? Questo è sicuramente uno sviluppo molto interessante, perché come dicevo poc'anzi, nel momento in cui noi pensiamo all'abitazione è come se stessimo ridisegnando il modo in cui i clienti oggi fruiscono dei contenuti all'interno delle case. Per cui a noi ci piace anche il claim del con Sky Wi-Fi e Sky, diciamo, le case sono tutta un'altra casa. E quindi si va nella direzione in cui, ad esempio, se prendiamo lo schermo principale, quello che tipicamente le persone hanno nel salotto, ma anche tutti gli altri schermi, tutte le televisioni, perché esistono anche modalità multiroom, beh, insomma, la televisione può diventare sicuramente il cuore non soltanto dell'entertainment, ma anche il cuore dello smart home. Quindi attraverso lo schermo e attraverso i nostri servizi poter controllare anche altri servizi che sicuramente saranno sempre più presenti dentro casa. Faccio riferimento allo smart home, faccio riferimento all'Internet of Things. Quindi è sicuramente questa la strada. Il nostro obiettivo è proprio quello di semplificare al massimo la vita delle persone, perché lei lo sa come cliente, ma lo sanno tutti i clienti, oggi spesso facciamo anche una grandissima fatica a districarci, no, tra tutti i vari telecomandi, i servizi, le diverse piattaforme. Il nostro obiettivo è aggregare nella nostra piattaforma Q, non soltanto i nostri servizi, ma quelli degli altri, e attraverso il broadband poter diventare, come dire, il cuore tecnologico dell'entertainment e della connettività all'interno delle case. Quindi la risposta alla domanda è sì. Questa strada, questo tipo di percorso è qualcosa che abbiamo in mente. Ok, le faccio un'ultima domanda su Open Fiber, visto che voi siete partner importanti, insomma, penso che basiate molto della vostra offerta, soprattutto dal punto di vista della qualità sulla rete Open Fiber. E visto anche la sua esperienza nel settore delle telecomunicazioni, lei pensa che sia la strada giusta del paese quella di avere un operatore che posa fibra ottica e offre i servizi all'ingrosso a tutti gli altri operatori? Sì, lo penso, sono sempre stato convinto di questo, nelle mie vite precedenti ho sempre sostenuto che una rete unica wholesale, e quindi che possa avere l'accesso con la migliore tecnologia sul mercato, sia la soluzione migliore per due temi. Il primo è perché è la migliore tecnologia, il secondo è perché si riescono ovviamente a costruire delle importanti economie di scala. La cosa importante è che quando si costruisce una piattaforma unica nazionale wholesale, sia appunto wholesale e non debba avere delle integrazioni verticali con operatori telefonici, perché allora in questo caso sarebbe probabilmente dal punto di vista della creazione e regolamentazione del mercato, una stortura che sicuramente non farebbe il bene del paese. Bene, grazie per essere stato con noi. A presto, buon lavoro. A presto. Adesso a proposito di evoluzione delle reti internet e anche del modo con cui stiamo usando, abbiamo usato e useremo la rete internet, alcuni dati dal Mobility Report di Ericsson. Saluto Massimo Basile, che è il responsabile del network dei servizi, quindi della rete dei servizi per Ericsson in Italia e nel sud-est del Mediterraneo. Benvenuto 2024. Saluti a tutti, grazie a te. Subito una domanda di curiosità sul sud-est del Mediterraneo. Che cosa intendete oltre all'Italia? Intendiamo tutti i paesi dei Balcani, dalla Serbia, Bulgaria, Albania, Romania e Moldavia, poi la Grecia, Macedonia e anche Libia, Cipro, Malta e Israele. E in questo periodo in cui o non si è viaggiato o comunque adesso, anche se si può riprendere a viaggiare, immagino che anche per voi sia un po' complesso, poi dipende dalle policy aziendali, come fate? Come avete fatto? Si passa la vita davanti allo schermo in modo un po' alienante, perché chiaramente le conference call iniziano la mattina presto e finiscono tardi, non hai neanche quel tempo per te in macchina per ascoltare un po' di musica o semplicemente in aereo dove devi anche spegnere il telefono, quindi diciamo si lavora molto in videoconferenza. Per fortuna le nostre piattaforme IT hanno funzionato benissimo, erano state preparate, lo facevamo già prima e adesso quasi praticamente il 100% del tempo. A proposito del rapporto Ericsson, che cosa dicono i vostri numeri sull'aumento di traffico e anche sul tempo speso sulle reti con particolare? Voi l'avete fatto in 11 paesi, in particolare in quelli più colpiti dall'emergenza, però se guardiamo all'Italia, cosa dicono i numeri? Beh, in generale abbiamo assistito a un importante incremento dell'utilizzo delle reti, sia fisse che mobili. In particolare le reti fisse hanno assorbito quasi tutto il volume di traffico dati incrementale che si è sviluppato durante il periodo di lockdown e hanno assistito anche a un raddoppio del volume di traffico dati. Ma anche le reti mobili, diciamo, sono state sottoposte a un significativo stress, più variabile, in qualche caso il volume di traffico è rimasto più o meno lo stesso, leggermente diminuito, in altri casi è aumentato, ma di ordine di grandezza del 10, 15, 20%. La differenza grossa rispetto al passato è anche la distribuzione del traffico, ovviamente, che per una rete mobile è molto importante. La componente di mobilità che devono gestire le reti cellulari è venuta meno in gran parte, e quindi la necessità di gestire utenti che si spostano, no, fuori casa è venuta meno, e questo anche ha aiutato le reti in qualche modo a gestire meglio il traffico, perché la componente di mobilità è un servizio importante che richiede reti efficienti. Quando viene a mancare le capacità sono disponibili per altro, e l'utilizzo delle reti mobili è cambiato in due aspetti importanti. Il primo, come ho detto, la mobilità; il secondo, il tipo di traffico. Sono aumentati i servizi bidirezionali. Prima si comunicava molto di più trasferendo dati dalla rete al terminale, adesso con le videoconferenze, l'upload di informazioni, con la connessione all'ufficio che richiede tanta banda anche verso la rete, è aumentato il traffico che si chiama uplink, in modo molto più sostanziale rispetto a downlink. Le reti mobili hanno retto bene all'impatto, però è stato necessario in qualche misura intervenire, perché le aree prima densamente cariche, come i centri storici carichi da turisti piuttosto che le aree commerciali, quelle industriali, si sono svuotate e si sono caricate zone che magari prima erano meno sottoposte a stress di traffico, più residenziali, e quindi magari gli operatori sono dovuti intervenire per aggiustare la capacità dove serviva. Ti faccio fare una considerazione su questo, proprio una considerazione tecnica che però è interessante, probabilmente non è molto conosciuta e molto nota. Mentre un tempo, forse in parte ancora oggi, buona parte della capacità di ridefinirsi della rete era solamente hardware, quindi per ridefinire, per rifocalizzare alcuni servizi sulla rete bisognava spostare fisicamente delle antenne o comunque dovevi adattarti a quello che c'era. Oggi buona parte di questa capacità, di questa flessibilità è software, quindi con il software si può ridefinire la rete, giusto? Però spiegaci meglio in che misura. Sì, allora la componente fisica è fondamentale anche oggi. Se non c'è l'antenna non puoi trasmettere il segnale. Quindi il punto di partenza è che l'antenna deve essere presente e deve avere le possibilità tecniche per emettere il segnale necessario. Quello che si può fare oggi in modo software, per esempio, è trasformare un segnale 2G, quindi GSM o WCDMA trasmesso da un'antenna, via software trasformarlo in un segnale LTE, quindi semplicemente riconvertendolo senza dover accedere fisicamente al sito, e in futuro si potrà fare anche verso il 5G, quindi sarà possibile attivare via software il 5G nelle stesse frequenze dove oggi si utilizza il 4G, proprio per poter sfruttare le caratteristiche di questo servizio senza dover andare fisicamente sul sito. Chiaramente, come sempre, è richiesto hardware più recente, di nuova generazione, non si possono fare questo tipo di cambiamenti su hardware molto vecchio, però esattamente come dicevi tu, è molto più importante la componente software rispetto al passato, ma è chiaro che la componente fisica in una rete mobile, e che prevede tanti punti, no, di accesso alla rete dove è presente l'hardware, rimane comunque fondamentale. Diciamo che le due componenti adesso hanno un'importanza più simile tra di loro, mentre in passato era quasi tutto hardware, bisognava sempre tornare sul sito, insomma. Tutto sommato, le reti, non solo in Italia, ma in generale, almeno per quanto riguarda l'Europa, hanno retto senza sostanziali drammi, no? Sì, hanno retto. Per esempio, nello studio che citavi prima, se andiamo a guardare anche proprio l'Italia, il 50% dei nostri intervistati italiani si è dichiarato molto soddisfatto della sua connessione fissa, e il 76% ha detto che le reti mobili stanno funzionando come, se non meglio, di prima del lockdown. Quindi è impressionante, se ci pensi, la reazione, perché il cambio è stato così importante e le reti hanno funzionato. Questo dipende in particolare da un fattore importante delle reti, che è quello del sovradimensionamento. Quindi in rete spesso presente più capacità rispetto a quella mediamente utilizzata, perché bisogna gestire i picchi di traffico, quindi è necessario mettere in rete più capacità di quella che normalmente si utilizza, proprio per gestire il momento in cui più utenti richiedono banda, che però è cambiato. Prima era magari la sera nelle zone più residenziali, perché gli utenti tornavano a casa, e di giorno nelle reti vicine alle aree industriali. Adesso è più distribuito durante tutta la giornata, si è spostato il picco perché gli utenti si collegano molto di più rispetto a prima. Questo però ha permesso alle reti di gestire questa aumentata domanda senza grossi, diciamo, problemi di qualità o di capacità, che chiaramente localmente ci possono anche essere stati, come è normale, però complessivamente gli utenti stessi lo dicono. Il 60% addirittura degli italiani che abbiamo intervistato adesso sostiene che la connessione mobile è diventata, e lo sarà dopo il Covid, tanto più importante rispetto a quella fissa, quindi la necessità di averle entrambe, ecco, anche avendo pure il wifi a casa. Sì, poi parliamo anche dell'evoluzione di queste reti, sia in base a quello che dice questo rapporto, sia in base anche alle vostre previsioni tecnologiche, però ci sono alcuni dati che sono interessanti, devo dire sorprendenti, perché io su alcuni servizi pensavo fossero aumentati, ma non del 9000%, come alcuni di quelli che voi avete rilevato. Ecco, e qui entriamo nel che cosa hanno fatto, cioè oltre ad aver utilizzato più banda, oltre ad aver speso più tempo online, che cosa hanno fatto? Uno potrebbe immaginarsi, certo, videoconferenze, eccetera, ma insomma ci sono dei dati interessanti. Sì, assolutamente. Le videoconferenze in senso lato, quindi l'utilizzo di piattaforme per connettersi in video ad altri, può essere per fare una videochiamata, come può essere per lavorare, quindi piattaforme come Teams di Microsoft, Zoom o altri, sono cresciuti come utilizzo del 10.000%, quindi 100 volte il volume, la quantità di tempo speso su queste applicazioni rispetto a prima del lockdown. Poi esistono anche applicazioni più specifiche per l'e-learning, quindi ecco, non lo avevo citato, chiaramente il video è anche video inteso come scuola da remoto, quindi istruzione, poi a meno che non si utilizzasse una applicazione specifica per l'educazione da remoto, in quel caso si ricade appunto sull'altra tipologia di applicazioni che sono cresciute meno in percentuale, ma sempre con percentuali dell'ordine del 200-300%, 1500%, come le applicazioni per i workout a casa, per fare fitness da remoto, o anche applicazioni per tranquillizzarsi. Ce n'è una che si chiama Calm, che ti aiuta a ritrovare un po' di pace, no, dall'ansia del lockdown. Quindi mediamente la informazione importante è che gli utenti italiani hanno dichiarato di avere speso 3 ore in media in più sulla rete fissa rispetto a prima del lockdown e 1 ora in più sulla rete mobile rispetto a prima del lockdown, e questo è un dato significativo, naturale se vogliamo, perché molte cose che prima si facevano fisicamente adesso si devono fare utilizzando piattaforme dati. Il 93% degli utenti ha aumentato il numero di attività che svolge online e pensa che il 60% dice di utilizzare almeno 6 diverse applicazioni, 6 diverse tipologie di attività online che magari prima non utilizzava. Infatti percentuali anche superiori al 20% degli utenti dichiarano di aver aggiunto almeno una nuova app, un nuovo tipo di servizio che prima non utilizzavano online. Quindi il lockdown ci ha costretto a imparare a usare nuove app, ci ha portato a imparare a usare di più app che utilizzavamo precedentemente. Prima mi chiedevi come lavoro io, lo smart working come Ericsson lo abbiamo implementato già da oltre un anno come servizio, io però tipicamente quando potevo venivo in ufficio se non viaggiavo. Adesso ho visto che da casa riesco a lavorare quasi con un'efficacia anche superiore rispetto a prima, ed è chiaro che poi nel tempo questo andrà bilanciato, però abbiamo imparato che l'efficacia di lavorare e insegnare, magari con qualche problema in più, e fare molte attività da remoto c'è, chiaramente poi dovremmo abituarci a bilanciarla con la componente fisica, che per gli esseri umani è fondamentale, no? Certo. I consumatori che avete intervistato hanno fatto delle previsioni, o chiamiamoli auspici, su 5, perché ne avete identificati 5, trend tecnologici, non so se siano speranze, desideri, come chiamarli. Sì, direi che sono entrambe le cose, sono desideri e aspettative, perché poi magari ci ritorneremo. Già da qualche tempo che nei nostri sondaggi vediamo come gli utenti sono particolarmente informati e hanno aspettative importanti dall'evoluzione delle reti e soprattutto dal 5G, quindi in tempi non sospetti, già più di un anno e mezzo fa, quando di 5G si cominciava a parlare, gli utenti già rispondevano chiedendo o aspettandosi entro 1, 2, 3 anni diversi tipi di servizi nuovi. Questi 5 trend che tu citavi sono legati in parte al lockdown, ma in parte rimangono invece, vengono dalle aspettative sulla tecnologia. Il primo che abbiamo identificato a livello di percentuale di utenti che lo richiedono, che è il 74%, quindi è sostanziale, è la resilienza delle reti, quindi ricade in quello che mi chiedevi prima, cioè vista l'importanza della rete fissa e mobile, che soprattutto in una fase come il lockdown è diventata così evidente, gli utenti vogliono e si aspettano che le reti siano sempre più resilienti e che il 5G stesso porti ancora più resilienza se possibile. Quindi le reti siano stabili, con una connettività continua, senza tempi morti, diciamo, e anche con qualità, no? Un altro aspetto importante invece è il lavoro da remoto. Il 58% degli utenti crede che la nuova normalità sarà proprio il lavoro da remoto, magari bilanciato, no, con lavoro fisico, per chi può perché non dimentichiamoci che ci sono categorie di lavoratori che non possono lavorare da remoto, quindi per chi può questa è richiesta come nuova normalità e si aspettano che i datori di lavoro stimolino questo tipo di modo di lavorare nuovo. E il 60% di utenti di realtà virtuale, questo è un altro trend che viene dal passato, dalla dematerializzazione, dalla perdita di importanza del possesso del bene fisico come la macchina, il CD o il libro. Il 60% degli utenti di realtà virtuale ritiene che lo status symbol o lo status stesso di uno, sarà sempre più virtuale, sarà meno importante il possesso fisico del bene e più importante il simbolo virtuale in quanto tale, e quindi gestire rapporti interpersonali, l'amicizia, la formazione e l'intrattenimento mediante strumenti tecnologici. E il 47% degli utenti invece, e qui andiamo sul un po' più futuristico, crede che la consegna dei beni automatizzata diventerà sempre più importante, quindi che sostituirà il corriere fisico, un drone o un veicolo che si muove autonomamente che ci consegnerà il pacco. Questo magari richiederà un certo tipo di trasformazione anche a livello di smart city per poter essere implementato. E infine l'ultimo dei trend che citavi è richiesto e visto dal 42% degli intervistati, che pensa che a livello medico le consultazioni sanitarie online diventeranno sempre più popolari, perché anche questo è successo. Ci siamo accorti che se non potevamo uscire di casa e non potevamo andare a trovare il medico per problemi magari non di vita o di morte, quindi non urgenti e rimandabili, poter magari parlare tramite una piattaforma elettronica e avere degli strumenti a disposizione per il medico stesso per fare una visita da remoto sarebbe stato utile. E quindi questo che noi già prevedevamo come uno dei servizi del 5G, dell'healthcare, è visto dagli intervistati come un'aspettativa importante per le nuove reti o le reti del futuro. Ecco, a proposito di reti del futuro, dalle previsioni agli auspici dei consumatori alle previsioni agli auspici vostri da player globale delle reti sia fisse che mobili, che cosa possiamo prevedere, che cosa possiamo aspettarci nel breve e medio periodo per le evoluzioni delle reti? Immagino che la parola 5G, più che una parola, un acronimo, insomma una sigla, sia tra le priorità, no? Assolutamente, noi facciamo sempre previsioni a 5 anni della crescita del traffico dati nelle reti mobili e le rivediamo appunto con cadenza puntualmente di un anno. E noi prevediamo che da oggi alla fine del 2025, nei prossimi 5 anni, il volume di traffico dati scambiato al mese nelle reti mobili praticamente si moltiplicherà di un fattore più di 4, tra 4 e 5. Oggi si scambiano al mese nel mondo 40 miliardi di gigabyte di dati e questo numero diventerà 160 circa alla fine del 2025. Questo volume di traffico così grande, quindi in 5 anni diciamo la crescita è importantissima, è dell'ordine del 50-60% anno su anno, questo volume di traffico chiaramente metterebbe in estrema pressione le reti esistenti e è necessario il nuovo standard del 5G proprio per poter gestire questa domanda sempre crescente da parte degli utenti in due modi: con la maggiore efficienza della tecnologia 5G e con l'accesso alle nuove bande di frequenza che è possibile grazie allo standard 5G. È necessario un mezzo per trasmettere i dati e questo mezzo nelle reti mobili è lo spettro elettromagnetico, e quindi con il 5G si ha accesso a altre bande e che possono scambiare, permetterci di scambiare questi dati. Nel 2025 questi numeri contengono al loro interno altre informazioni. Il 45% di questi dati saranno trasmessi dalle reti 5G, quindi da oggi siamo sotto l'1%, a fine del 2025 quasi la metà del traffico dati scambiato sarà di tipo 5G, il che significa che solo il 5G nel 2025 scambierà una volta e mezza i dati che si scambiano oggi in tutte le reti del mondo dove il 5G si è appena affacciato. Quindi questa è la previsione a livello volumetrico. Poi abbiamo una previsione a livello di utilizzo da parte degli utenti. Nell'Europa occidentale e in Italia oggi mediamente un utente consuma intorno ai 7 gigabyte di dati al mese, il famoso pacchetto dati, no, che i nostri operatori offrono con le varie tariffe. Chiaramente questa è una media. quindi ci saranno utenti che consumano molto di più. Già oggi ci sono utenti che gli operatori vedono con un po' di paura, che consumano centinaia di gigabyte, non scherzo, in un mese, e ci sono utenti che fanno solo messaggistica e scambiano forse a un giga, non arrivano neanche. Ma questo numero medio si moltiplicherà a sua volta di un fattore circa 5, a 2025 diventerà circa 35 gigabyte, anche qui medio, quindi ci saranno sempre gli utenti che scambiano pochi dati e quelli che ne scambiano tantissimi. Questa crescita così importante quindi richiede necessariamente l'introduzione delle nuove tecnologie, che per fortuna, come il 5G, che per fortuna non porteranno con sé solo la possibilità di scambiare questi dati, ma ci abiliteranno anche nuovi servizi innovativi di cui immagino che avrete tutti sentito parlare, dall'IoT, servizi che sfruttano la bassa latenza che porterà il 5G, quindi virtual reality, augmented reality, controllo da remoto di droni o di macchine in movimento, e tutte le applicazioni che si basano molto sul video, che è di fatto, come consumo di dati, l'elemento che fa da padrone. Il 75% di questo volume di traffico dati scambiato nel 2025 ci aspettiamo che sarà video. Questo, quindi se guardiamo le reti da questo punto di vista, ci rendiamo conto del tipo di trasformazione che è necessaria. A livello di tecnologia lato utente, questo chiaramente si accompagna con la disponibilità di dispositivi sempre più sofisticati. Perché la crescita del video? La crescita del video è dovuta sia alla crescita della domanda e dell'offerta di contenuti multimediali, che anche alla qualità sempre maggiore dei dispositivi su cui li guardiamo. Un video HD in un terminale mobile, full HD, consuma circa 3 GB. Se questo video fosse 4K, ne consumerebbe 7. Se fosse virtual reality, con servizi interattivi, la possibilità di vedere in più direzioni, eccetera, potrebbe arrivare a consumarne 12 in un'ora. Quindi 3 GB in un'ora di video HD, 7 video 4K e 12 in virtual reality. E quindi se ho un dispositivo a disposizione, uno smartphone o degli occhiali per realtà virtuale, no? dove ho uno schermo ad alta definizione, e lo utilizzerò e cercherò di avere una qualità da parte del contenuto in linea con la qualità del dispositivo. Oggi i terminali, mediamente smartphone, hanno una qualità dell'ordine del full HD, ci sono già smartphone oggi di tipo 4K, ma per esempio per giocare online in virtual reality e mettere un terminale molto vicino agli occhi, maggiore la densità dei pixel e migliore sarà l'effetto della realtà virtuale, appunto dell'effetto di illusione, no? della realtà virtuale. E quindi chiederemo magari anche terminali con una risoluzione superiore alla full HD, al 4K, consumando sempre più banda. Quindi il consumo da parte degli utenti, per vari motivi, che può essere intrattenimento, può essere lavoro, può essere educazione, o potranno essere nuovi servizi dell'Internet of Things, porterà a una crescita sempre maggiore della domanda e alla necessità di rendere le reti più capaci e in grado di soddisfarla, insomma, no? di gestirla. Un'ultima considerazione sul 5G nel nostro paese e, diciamo, anche nei paesi limitrofi. A che punto siamo? Bene, allora noi siamo stati pionieri. In Europa più o meno le statistiche ad oggi sono che circa il 20% dello spettro che deve essere allocato dai diversi paesi, quindi licenziato agli operatori nei diversi paesi per il 5G, nelle bande basse, nella banda media dei 3 GHz e nella banda delle onde millimetriche, è stato allocato ad oggi, quindi solo il 20%. Noi lo abbiamo già fatto e le prime reti commerciali in Italia sono state lanciate ormai un anno fa, a giugno del 2019. Quindi se guardiamo nel mondo, dove i lanci precedentemente erano avvenuti praticamente solo negli Stati Uniti e in Corea, nel mondo siamo stati fra i primi, siamo stati 3-4 paesi a lanciare l'estate scorsa, quindi l'Italia, la Spagna, gli UK, che ancora faceva parte dell'Unione Europea, e l'Austria. Gli altri mercati stanno ancora nella fase, in qualche caso, dell'asta delle frequenze. In Finlandia l'asta è appena finita, in Francia deve essere ancora fatta, in Olanda verrà finita, completata nel mese di giugno. La Svezia invece ha assegnato le frequenze e il lancio delle reti è avvenuto nel mese di maggio, quindi poco più di un mese fa. O poco meno di un mese fa. Quindi siamo stati pionieri come introduzione del 5G, sia come trial, quindi test della tecnologia, che come lancio commerciale. La diffusione del servizio richiederà l'aggiornamento delle reti da parte degli operatori, quindi l'aggiunta dell'hardware, delle antenne necessarie per gestire il nuovo spettro, e questo è un processo che richiede degli investimenti che stanno andando con una certa gradualità. Se vogliamo, l'essere stati così pionieri poi non è stato accompagnato da una spinta particolarmente accelerata dell'introduzione del 5G nel paese, anche perché conosciamo tutti i problemi nel settore che esistono in Italia, semplicemente per ottenere il permesso per accendere una nuova frequenza. La burocrazia spesso rallenta l'evoluzione tecnologica. Sappiamo di movimenti di comuni che ostacolano l'arrivo di questa tecnologia, che invece sarà fondamentale per la crescita e l'innovazione tecnologica e la crescita del paese. Quindi gli operatori stanno aggiornando le loro reti, lo stanno facendo, e stanno chiaramente utilizzando e sperimentando il servizio con le prime tariffe e i primi utenti, però in questo momento è la Cina, sono la Cina e gli Stati Uniti a farla da padrone nel mondo come velocità e pressione, diciamo, nell'introduzione del 5G. In particolare in Cina siamo già ad oggi a 50 milioni di utenti e prevediamo che per la fine dell'anno la sola Cina possa raggiungere circa 150 milioni di utenti 5G, quindi una crescita, considerato che hanno iniziato molto dopo di noi alla fine dell'anno scorso, è chiaro che il paese è molto più grande, però la crescita è importante, e gli Stati Uniti invece guidano nel mercato occidentale perché vedono nel 5G, ricordiamo negli Stati Uniti per esempio il 2G di fatto non esiste, quindi le reti sono già prevalentemente di tipo 4G, vedono nel 5G la possibilità di soddisfare la domanda dei consumatori, far crescere l'innovazione e conquistare una leadership mondiale appunto nell'innovazione tecnologica, che precedentemente era più europea, se vogliamo, no? Bene, grazie a Massimo Basile per essere stato con noi, a presto, buon lavoro. Grazie a te, a presto. Prima di salutarci, un aggiornamento sull'app Immuni, l'app per il contact tracing italiana, che è stata scaricata finora 3 milioni di volte. Questo non significa che siano 3 milioni di italiani che ce l'hanno, perché immagino, ad esempio, io l'ho scaricata sia sul mio Android che sul mio iPhone, quindi l'ho scaricata due volte. Ci sarà anche chi l'ha scaricata più volte perché magari ha fatto prove, test, eccetera, eccetera. Comunque, nel frattempo anche la Germania ha pubblicato la propria app di contact tracing, che come la nostra è basata sulla tecnologia di Apple e di Google. Sono già quasi 7 milioni di download dell'app tedesca. Questo un po' perché i tedeschi sono di più, un po' perché i tedeschi secondo me sono digitalmente forse un po' più svegli degli italiani, e poi anche perché i tedeschi, che sono mediamente più informati, hanno capito benissimo, poi sono anche molto concreti, hanno capito benissimo che questa applicazione può essere utile, non è detto che sia utile, ma può essere utile, e quindi l'hanno scaricata. Vedrete che secondo me in Germania la scaricheranno di più che qui. Anzi, voglio essere fiducioso, spero che anche qui siano tanti i milioni di persone che scaricheranno Immuni. Anche perché devo dire che ho letto e anche parlato con persone che si occupano di codice, e i giudizi sull'applicazione sono fantastici, straordinari, cioè probabilmente Immuni è una delle migliori applicazioni. Poi certo che abbiamo già detto più volte che si tratta di un pezzetto di un puzzle più vasto, quindi questo è importante, però visto che noi ci occupiamo di tecnologia, questo va detto e riconosciuto. A proposito di questioni tecniche, è stato raggiunto un accordo a livello europeo per l'interoperabilità di queste applicazioni. Allora, queste applicazioni, che sono fatte sulla base della tecnologia di Apple e Google, sono nativamente interoperabili, ma quello che deve essere reso interoperabile è il sistema, sono i sistemi diciamo tecnologici, informatici dei servizi sanitari nazionali, che devono parlarsi tra di loro, perché quando io se una persona risultasse positiva, decide in accordo con il servizio nazionale di rendere questa informazione disponibile in maniera ovviamente anonima a tutte le persone con le quali lui è entrato in contatto, questa informazione finisce a tutti quelli che hanno le applicazioni italiane. Ecco, per far sì che questa informazione arrivi a tutte le persone in tutta Europa che hanno queste applicazioni basate sullo schema Apple Google, devono parlarsi i sistemi sanitari. Quindi è stato trovato un accordo, quindi presumiamo che nel giro di poche settimane queste applicazioni saranno interoperabili. Ricordo che oltre a Italia e Germania applicazioni simili sono operative anche in Polonia, Lituania e Svizzera. Devo dire che la Lituania e la Svizzera sono state le prime. La Svizzera aveva fatto una sperimentazione con un gruppo ristretto di persone, la Lituania ha avuto qualche problema con il garante privacy che ha fatto ritirare l'applicazione, e quindi noi siamo messi piuttosto bene. La Gran Bretagna ha fatto un gran casino, Allora ha fatto alcune settimane di test sull'isola di Wight, la famosa e mitica isola di Wight, ma ha deciso di abbandonare l'attuale applicazione e svilupparne una sulla base della tecnologia appunto messa a disposizione da Apple e Google, e questo ritarderà la pubblicazione di alcuni mesi. C'è addirittura chi dice, chi pensa che questa applicazione non sarà pronta prima dell'autunno. Insomma, molte polemiche in Gran Bretagna, accusa il governo di aver fatto un pasticcio, un caos pazzesco. La Spagna inizierà verso la fine del mese una sperimentazione di un'app simile alla nostra, cioè sempre sulla base dello stesso schema, sull'isola della Gomera, che è una piccola isola delle Canarie, una delle più piccole isole delle Canarie, che ha poco più di 22.000 abitanti. La Francia, quindi giusto per fare un riepilogo dei principali paesi europei, la Francia, ricordiamo che ha lanciato la propria app da qualche giorno, è un'app però che non segue lo schema decentralizzato che utilizziamo noi, la Germania, la Svizzera, la Spagna, eccetera, e invece è centralizzata, e vedrete che molto probabilmente avranno anche loro tutta una serie di problemi che sono stati riscontrati anche negli altri paesi. Ci sono molti ascoltatori che hanno scritto lamentando il fatto che per Android viene richiesta l'attivazione anche del GPS, perché sì, Android ha promesso nel prossimo sistema operativo di fare questo disaccoppiamento tra il Bluetooth e il GPS, però attualmente Android mette sotto un unico cappello GPS, cioè i servizi di localizzazione sono GPS e Bluetooth, quindi per tenere attivo il Bluetooth devi accendere tutto. Questo effettivamente può essere un problema, uno dovrebbe entrare nelle singole applicazioni, nelle impostazioni, dicendo usa il GPS o mai, cioè dici questo, io non voglio che nessuna applicazione usi il GPS, quindi per ognuna delle applicazioni uno va a dire al sistema di non usare il GPS, oppure va a dire usa il GPS solo quando l'app è attiva. Quindi se tutte le applicazioni uno non le tiene attive, non le tiene aperte, nessuna va a consumare anche nemmeno la batteria perché usa il GPS. E però capisco che questa può essere una scocciatura. Bene, è tutto per questa puntata di 2024. Come sempre vi invito a scrivermi a 2024@radio24.it. Vi ricordo anche che abbiamo lanciato già da direi 4-5 settimane un nuovo podcast, una nuova serie di podcast che non sarà infinita, però alcune puntate ve le proporremo, che si intitola 2024+10, quindi una prospettiva al 2034 per capire cosa succederà nel futuro. A 2024 ci occupiamo del presente con una prospettiva di qualche anno, invece lì andiamo un po' in là. Se volete suggerirci persone che vi hanno particolarmente colpito per la loro capacità di visione per i prossimi anni, beh, potete segnalare al nostro indirizzo di posta elettronica, oppure anche Facebook, Twitter o LinkedIn. Devo dire che non sono tantissimi visionari, o comunque non sono tantissimi quelli che riescono a raccontarlo molto bene. Ecco, questa è sicuramente una difficoltà, ma insomma è anche il nostro compito trovare le persone giuste per proporle all'interno di questa nuova serie di podcast. Li trovate online sul nostro sito internet nella sezione podcast originali, Nella home page trovate podcast originali, ma comunque disponibili anche nelle principali piattaforme audio, Spotify, Google Podcast, eccetera, eccetera. Io sono Enrico Pagliarini, come sempre grazie per la vostra attenzione, appuntamento alla prossima settimana.